ai vertici di questo paese, ai vertici delle aziende, ai vertici della Presidenza della Repubblica quando si cambierà, lì le voglio vedere. Sul palco di Sanremo non me ne frega niente che ci siano 10 donne, ci sono sempre state, fanno le vallette, e mi dispiace che i quotidiani tutti abbiano dato spazio anche nei giorni scorsi alla polemica su Rula Gebral. Cazzate, fatemelo dire. E la nostra Sunday Girl di questa domenica è una che non le ha mandate a dire ad Amadeus. La nostra sigla e poi vi dico chi è. Benvenuta, benvenuta Monica Cirinna, senatrice del Partito Democratico. Ma perché un palcoscenico così importante, un momento davvero nazional popolare, lascia passare questi messaggi così antichi ancora, secondo lei, senatrice? Ma intanto grazie per questo invito, per darmi voce su un argomento così caldo. Ma perché questo è Sanremo del Potete, questa è la RAI di Salini, ha portato ai sovranisti, è la RAI dell'uso strumentale delle donne per fare audience, non c'è nessuna innovazione culturale, non c'è veramente la gente del mondo dello spettacolo, che è la gente di Amadeus, è anche la gente di Matteo Renzi, quindi tanto sovranista non dovrebbe essere, però Cirinna. Ma io ho chiesto in chiarimento sia a Salini che a lui e mi sembra che sia venuto un silenzio assordante. Quello di Salini me lo aspettavo, quello della gente di Matteo Renzi me l'aspettavo un po' di meno, ma come ben sapete io sono rimasta saldamente nel Partito Democratico, qualcuno ha fatto un'altra scelta. Il punto vero è ritenere che 10 donne possano dare un'immagine positiva delle donne rispetto a quell'Europa che si evolve, quel mondo che si evolve, come giustamente ha detto lei in apertura del programma. L'Italia è ancora ancorata a questa cultura assolutamente retrograda e macista, e la RAI in questo non aiuta in niente. Una RAI che dovrebbe promuovere i temi sociali e culturali e utilizzare un linguaggio giusto. Già Amadeus nel linguaggio ha sbagliato tutto. In 9 minuti ha detto 11 volte bella, bellissima, meravigliosa, sexy. Per carità, poi chi si scusa ha sempre un punto sopra gli altri. Perché già scusarsi in un mondo di maschi che si sentono onnipotenti è già un buon segnale. Quindi almeno questo gli va riconosciuto ad Amadeus. Ha tanti giorni a Sanremo per dimostrare che quello che ha detto era uno scivolone e non quello che pensa. Ecco, ma l'idea di agganciarsi allo spirito del tempo, cioè il fatto che ci sia con tutta evidenza, no, una nuova presenza femminile ovunque, abbiamo visto dalle primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti, dove Elizabeth Warren ha dato battaglia soltanto perché uno dei suoi competitor, Bernie Sanders, ha detto: ma io non credo che gli americani potranno mai volere una donna alla Casa Bianca, e lei gli ha risposto a brutto muso: ah sì, io tra tutti voi che siamo qui, stiamo facendo il dibattito, sono l'unica che non ha mai subito una sconfitta. Ma a parte questo, poi abbiamo, appunto, lo citavo prima, Christine Lagarde dalla BCE, Ursula von der Leyen. Ebbene, per agganciarci a questo spirito, il Festival di Sanremo non pensa che sia, non ci sia niente di meglio che invitare 10 donne perché sono belle. E mi lasci dire, anche la polemica che c'è stata su Rula Gebral, veramente stucchevole, perché insomma si poteva trovare qualcuno più autorevole per parlare di temi seri come il Me Too, legato peraltro a un produttore, Weinstein, che ha prodotto lo stesso film della Rula Gebral. Comunque, secondo lei, le sembra che 10 donne scelte per la loro bellezza, come diceva Amadeus, rappresentino quel che è lo spirito del tempo? Purtroppo assolutamente no, anche perché sono relegate a un ruolo di subalternità e di vallette. Se davvero si voleva dare un segnale importante, 10 donne io l'avrei messe nei ruoli dirigenziali della RAI, nel consiglio d'amministrazione e anche, come dire, in tutte quelle nomine che ha appena fatto Salini, in cui mi sembra di aver letto un nome solo di una donna a RAI 3. Quindi la RAI con le donne ha ben poco a che fare in termini di evoluzione culturale. È l'immagine stereotipata della donna servile, della donna valletta, bella, desiderabile. E che va apprezzata perché sta un passo indietro rispetto al suo uomo. Su questo non bisogna parlare, perché io credo che sia l'ennesimo stereotipo, e l'abbiamo altre soluzioni e situazioni, per cui una donna, benché abbia tutti i numeri per essere lei la numero uno, se sta con un uomo con il quale può e deve avere un rapporto paritario, in realtà è costretta, come si dice in Inghilterra, al sedile di dietro. Peccato che sono quasi 90 anni che sul sedile di dietro ci sta un uomo in Inghilterra e noi neanche questo siamo in grado di capire. Grazie, grazie Monica Cirinnà, la nostra Sunday Girl di questa domenica. Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci di nuovo, Nessuna è perfetta. Mettiamo da parte questa polemica a proposito del ruolo delle donne e di come è stato interpretato in un maldestra conferenza stampa del conduttore Amadeus. Vi chiedo ovviamente di farci sapere come la pensate, magari siete totalmente in disaccordo con me e ben lieta di ascoltare i vostri punti di vista, che come sapete ci potete lasciare come messaggi vocali all'828 12 12 e noi li faremo ascoltare la domenica successiva. E anche questa domenica, cari fedeli seguaci di Nessuna è perfetta, parliamo di lavoro. Non perché la domenica io vi debba per forza far riflettere su il vostro momento professionale, cioè proprio pure la domenica, no, perché comunque la domenica è un giorno in cui uno può fare dei pensierini sui propri futuri professionali o anche semplicemente su quello che può riguardare un figlio, una figlia, un nipote, uno di famiglia. Ecco, allora, il 2020, ve lo voglio dire, almeno è cominciato con una buona notizia. Tra tanti venti di guerra, una buona notizia c'è stata ed è che c'è in crescita la richiesta di professionisti laureati. Nel solo mese di gennaio le assunzioni in programma sono 461.000, 20.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ebbene, questo nel settore privato prevalentemente, oltre l'80% delle richieste riguarda appunto aziende private. Aumenta la domanda di laureati in architettura, 45,2% rispetto al gennaio 2019. Aumentano le richieste di laureati in economia, più 33,6%, in ingegneria civile e ambientale, più 29%, in ingegneria elettronica e dell'informazione, più 27,9%. E aumentano le richieste di laureati nelle materie scientifiche, matematica, fisica. Insomma, lo sapete, lo diciamo da tempo, spesso è stata nostra ospite, per esempio, Ersilia Vaudo Scarpetta, che è direttore, Chief Financial Officer della diversità all'Agenzia Spaziale Europea a Parigi. Chi sta decidendo in questi mesi che indirizzo prendere all'università o anche quale liceo scegliere dopo la terza media, tenga presente che questi dati confermano che chi studia le materie scientifiche avrà più possibilità di trovare lavoro. 828 12 12, questo è il numero per i vostri messaggi vocali, perché aspettiamo anche di sapere se ci sono domande su questo o anche le vostre esperienze. Ma nel frattempo sentiamo chi al tema della fabbrica del futuro, del lavoro, dei contratti smart ha dedicato un bel libro scritto insieme a Marco Bentivogli, sindacalista Marco Bentivogli. E dunque benvenuto Diodato Pirone, giornalista e giornalista del Messaggero, che si occupa appunto di economia e di lavoro. Sì, ciao. Allora, la fabbrica futuro, il libro che hai scritto insieme a Bentivoglio, traccia un po' il futuro di quello che saranno le fabbriche, quelle che si chiamavano fabbriche. Che futuro ci sarà e quanto questo futuro riguarda l'Italia, dove noi pensiamo alle fabbriche di un tempo, per esempio alla vecchia Fiat, e vediamo che diciamo un po' la delocalizzazione, un po' il fatto che la Fiat è diventata FCA americana, gli stabilimenti, quelli storici, si sono molto ridimensionati. Sì, allora il libro Fabbrica Futuro, che è edito da Egea, lo abbiamo fatto insieme, io e Marco Bencivogli, per un motivo fondamentale. Noi vorremmo fare un controracconto, cioè dire agli italiani: guardate, le fabbriche non sono più le fabbriche inferno del Novecento, non sono più, perlomeno quelle innovative, quelle che sono frutto di investimenti, di una visione, di un collegamento con l'andamento dei mercati mondiali. Bene, queste fabbriche sono un patrimonio dei territori nei quali esse operano e come tali vanno, come posso dire, trattate con attenzione, vanno capite e vanno curate, perché possono essere, appunto, possono rappresentare delle grandissime opportunità per chi ci vive vicino. Noi abbiamo raccontato le storie di 5 stabilimenti della Fiat, da Pomigliano, che sta vicino a Napoli, a Melfi, che è proprio nel cuore del Mezzogiorno, al confine fra Campania, Basilicata e Puglia, Cassino, a due passi da Roma, Mirafiori, la vecchia, la mitica Mirafiori, che adesso è uno stabilimento completamente diverso rispetto a quella che ha fatto la storia della classe operaia italiana, e infine la Sevel, che è questa joint venture che fa furgoni, una joint venture tra Fiat e Peugeot. Ebbene, in tutti e 5 questi stabilimenti noi abbiamo trovato un cambiamento del lavoro profondo, abbiamo trovato che la vecchia figura dell'operaio, ma anche quella del capo, stanno cambiando profondamente. Quante donne avete trovato, anche in posizioni, allora, diciamo, di vertice? Allora, guarda, le donne mediamente negli stabilimenti rappresentano fra il 20 e il 30% del personale, quindi adesso gli stabilimenti, in tutto il mondo gli stabilimenti automobilistici non sono più quei giganti che erano un tempo, massimo sono da 5, 6, 8 mila persone, come per esempio quello di Melfi, e quindi circa il 20-25% del personale è femminile. Se posso raccontare una cosa, la mia grande sorpresa, la prima volta io sono andato a Pomigliano e sono rimasto molto colpito dal fatto che praticamente lo stabilimento era gestito da un gruppo di ingegnere donne, tutte o quasi tutte laureate lì alla Federico II di Napoli, quindi diciamo rappresentavano quanto di meglio della... Beh, certo, se consideriamo che oggi il ministro dell'università e della ricerca da lì viene, era rettore della Federico II a Napoli. Assolutamente, è una tradizione che in Italia è poco nota, ma invece devo dire che queste ragazze la rappresentavano, oserei dire, brillantemente. Comunque per me fu una sorpresa, diciamo, e poi frequentandole, facendo il libro, ricostruendo un pochino la loro storia, mi sono reso conto, come dire, che sono state diciamo la base di questa trasformazione che ha avuto la fabbrica, in particolare l'azienda Fiat, da una struttura che era verticale, no? Molto, molto misurata sull'esercito, molto dall'alto al basso, una struttura invece che adesso è molto più orizzontale. Cioè, tu ci stai dicendo, Diodato Pirone, che la presenza delle donne in una fabbrica come quella di Pomigliano ha introdotto delle novità sostanziali, visibili? Allora, ti sto dicendo che ci sono state delle novità proprio nella struttura e nella cultura industriale della Fiat. Queste novità sono state interpretate, direi, molto bene proprio dalle donne, non soltanto nelle posizioni, come ti posso dire, più semplici, no? Ma anche in posizioni molto importanti, non solo a Pomigliano, anche in altre... Ecco, in altre, per altre aiutare a capire anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, in che modo la presenza di un gruppo di donne ingegnere è riuscita a modificare quella che era la visione più antica della fabbrica? Beh, allora, a Pomigliano, voi ricorderete che 10 anni fa ci fu una grande battaglia su Pomigliano. A Pomigliano è cambiata proprio la cultura della fabbrica, nel senso che l'azienda scelse una circa 200 operai, alcuni dei quali donne, fece smettere loro di lavorare con le mani, li trasformò in agenti del cambiamento, come dicono loro. Sono sostanzialmente, si chiamano team leader, sono dei capi squadra che però sono inquadrati sostanzialmente come operai e lavorano in piccole stazioni di 6 o 7 persone che loro coordinano, quello è il loro, quello che loro chiamano dominio. Ecco, e quindi hanno, diciamo, il baricentro del potere, chiamiamolo così, dai mitici uffici del direttore, si è trasferito, è più vicino alla linea di montaggio attraverso queste persone. Parte di queste persone sono donne e queste persone a loro volta sono coordinate, nel caso specifico a Pomigliano erano coordinate, adesso diciamo negli anni poi le cose sono cambiate, proprio da un gruppo di ingegneri. La mia impressione è che loro erano particolarmente adatti ad interpretare questo cambiamento. Grazie. Ti voglio far concludere il pensiero. Perché per preparazione, perché diciamo un passaggio così difficile, forse l'essere donna, gli dava una serie di vantaggi. Guarda, io ricordo nel libro che ho intervistato una team leader di Cassino, la quale mi diceva una cosa che mi ha abbastanza impressionato. Lei mi diceva, io sono diventata team leader perché era figlia di un vecchio dipendente Fiat, perché nel cambiamento del mio padre non voleva che io entrassi in fabbrica, mi ha detto, no? Però poi quando io ci sono entrata mi sono accorta che non era più la fabbrica di mio padre, non era la fabbrica che chiedeva lo sforzo fisico, che chiedeva, rumorosa, che era difficile da vivere e che era anche dura sul piano dei rapporti con i capi, no? Era una fabbrica che mi chiedeva una serie di proposte, tant'è che io feci delle proposte e a un certo punto mi dissero: guarda, hai delle belle idee, ti facciamo team leader. Dopodiché io mi trovai, mi ha raccontato questa signora, si chiama Roberta, mi trovai a comandare, tra virgolette, un gruppo di 6 uomini, e non è facilissimo, no? Soprattutto in un contesto che era poco abituato ad avere una leadership femminile, però c'è riuscita. E quindi è proprio il... Basta, non profonda, capito? Non soltanto a livello, di operazioni complesse. La cosa che mi colpì molto è che lei mi disse a un certo punto: guarda, io sono riuscito ad amalgamare così tanto questa squadra che i miei colleghi ormai non mi trattano più come, tra virgolette, una donna, ma mi considerano uno di loro. il passo successivo, quando saremo trattate da donne e contemporaneamente considerate comunque del gruppo. Grazie a Diodato Pirone, coautore insieme al sindacalista Marco Bentivoglio di Fabbrica Futuro, lavoro, contratti smart, azienda bassa gerarchia, la rivoluzione nell'Italia dell'era post Marchionne. Grazie, buona domenica Diodato. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta. Abbiamo parlato del ruolo, dell'importanza dell'avere una squadra di ingegnere che ha cambiato un po' anche i ritmi e lo stile di lavoro in una fabbrica come quella della Fiat, oggi FCA di Pomigliano. Ne abbiamo parlato col giornalista del Messaggero Diodato Pirone e ora abbiamo una ingegnera, ma un'ingegnera nucleare, in questo caso direttrice della funzione ciclo del combustibile di Sogin. Benvenuta, buona domenica ingegnera Anna Francesca Mariani. Buona domenica anche a lei. Allora, grazie per avermi ospitato. Io da tempo, non da oggi, sostengo che il mondo, o almeno l'Italia, può essere salvato dalle ingegnere. Era il titolo che volevo dare ad un convegno che organizzammo qualche anno fa con Valore D e con il settimanale che allora dirigevo. Partecipò un ingegnere anche, che era John Elkann. Ma al di là della mia aspirazione a salvare il mondo con le ingegnere, che cosa fa esattamente un ingegnere nucleare, cioè il suo lavoro? Ma il mio lavoro in particolare Sì, noi ci occupiamo di mettere fine al ciclo del combustibile esaurito. Nel momento in cui il combustibile nucleare è stato estratto dal reattore, a quel punto diventa di nostra competenza e noi ne seguiamo la vita fino alla sistemazione definitiva, il suo riprocessamento, l'estrazione dell'uranio e del plutonio, che sono le materie più importanti che potrebbero essere riutilizzate, e la gestione poi dei rifiuti che poi escono fuori da questo riprocessamento per andare poi allo smaltimento finale, al deposito nazionale e poi al deposito geologico. Ecco, senta ingegnere, noi prima abbiamo dato i dati dell'Union Camere che segnalano un incremento nel numero degli assunti, dei laureati assunti a gennaio 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, e appunto ingegneri nel settore sia civile che ambientale che nell'ingegneria elettronica e dell'informazione, insomma è abbastanza rilevante l'aumento, più 29%, più 27,9%. Anche nella sua azienda le ingegnere donne o gli ingegneri uomini costituiscono, come dire, la parte privilegiata dei neoassunti, e ne state assumendo, ne avete intenzione di assumere nuovi? Allora, naturalmente non posso parlare adesso per la funzione del personale, però noi sicuramente abbiamo fatto una bella campagna di assunzione di ingegneri e di laureati comunque nell'ambito delle discipline scientifiche, e in questo ambito nel tempo la percentuale delle donne è aumentata notevolmente. In questo momento le donne rappresentano il 30% delle laureate in discipline scientifiche. Ecco, senta ingegnere, ma lei perché ha scelto questa strada? Guardi, la mia è una storia un po' particolare, perché io ho deciso di diventare ingegnere nucleare in prima media. Davvero? Sì. Anche io ho deciso di diventare giornalista in prima media, ma era un po' più semplice la mia scelta. Io ho seguito un corso del professore di educazione tecnica in cui parlava dell'atomo e sono rimasta affascinata e ho deciso che quello sarebbe stato il mio futuro. Poi naturalmente avendo il nonno ingegnere che mi aveva un po' influenzato ad amare le materie scientifiche, mi ha un po' influenzato, e quindi ho deciso in quel momento e ho perseguito la mia strada. E a parte il nonno che l'ha un po' influenzata, c'è stato qualcun altro che invece ha cercato di dissuaderla con l'argomento «ma no, ingegneria non è una facoltà da donne»? Guardi, fortunatamente io, la mia famiglia è una famiglia che ha sempre avuto, diciamo, donne che hanno avuto una carriera, mia zia è primario anestesista, quindi da quel punto di vista io sono stata molto fortunata, perché tutti mi hanno sempre stimolato a fare quello che mi piaceva. Nel mio caso era seguire una carriera scientifica. Senta, parlando prima con Diodato Pirone, il giornalista del Messaggero che ha scritto un libro sulla fabbrica Futuro, ci raccontava di come un team di donne ingegnere abbia influito nel cambiamento proprio anche dello stile di lavoro all'interno di una fabbrica con grande tradizione come quella di Pomigliano d'Arco, fabbrica di automobili. Secondo lei può esserci un approccio differente nella presenza di donne con una specializzazione tecnica, appunto in materie scientifiche o tecniche o tecnologiche? Cambia il rapporto con l'ambiente di lavoro, sì. Intendo, sì, io sono convinta di questo. Comunque gli uomini e le donne hanno degli approcci differenti alle problematiche. L'ideale dal mio punto di vista è che sui progetti ci fossero tutte e due le opinioni e i modi di vedere, perché la donna dal mio punto di vista è molto più pragmatica e capace più di arrivare al punto, magari però essendo più pragmatica poi perde alcuni dettagli che possono essere poi invece più visti dal lato maschile. Però è fondamentale secondo me anche avere un approccio femminile sull'ambiente di lavoro. Senta ingegner Mariani, l'ultima cosa che le voglio chiedere è: qual è stato il suo momento di massima felicità professionale? Guardi, incredibilmente il momento più bello è stato il momento dell'assunzione, perché io ho fatto il colloquio di assunzione in cui parlava l'allora direttore generale della Sogin e mi raccontava quello che sarebbe, perché la Sogin era appena nata. Quindi stiamo parlando di che anno, ingegnere? Del 2000. Uh-huh. Del 2000. La Sogin era appena nata, il decommissioning nucleare praticamente non esisteva e lo dovevamo creare noi. E lui parlava e io mi esaltavo, dicevo: questo è il lavoro per cui ho studiato. È stato il momento più bello. Vede, lei dice una cosa molto vera, no? Fare un lavoro per cui uno ha studiato con passione risolve tanti problemi nella vita. Nelle circostanze attuali molti laureati non trovano corrispondenza col lavoro per il quale hanno studiato, anche perché spesso si sono laureati in discipline per le quali non c'è mercato, non c'è lavoro. Lei ha avuto la fortuna di decidere a 11 anni che cosa le piaceva, e la stessa fortuna l'ho avuta io, anche se non ci credevo che poi ci sarei riuscita. Però per quelle famiglie che oggi sono alle prese con la decisione, che cosa, come aiutare i figli a scegliere un percorso di studi dopo la terza media, pensando anche al futuro, alla possibilità di trovare lavoro, che consiglio darebbe? Ma io sicuramente consiglierei le materie scientifiche, sicuramente andare verso materie tecniche come l'ingegneria. Naturalmente bisogna essere portati, io dico sempre bisogna fare quello per cui si è portati, perché non sempre è facile. Io per esempio non avrei mai potuto fare il legale, non ho proprio la forma mentis per questo, però io quello che vedo è che una laurea in ingegneria apre molte porte. Riesce, cioè gli sfoghi che ci sono una volta che uno ha preso una laurea tecnica sono molto maggiori rispetto a quelle che possono essere le altre lauree. Cioè si va dalla possibilità di avere la libera professione, la possibilità di crescere nella ricerca, la possibilità di andare a lavorare nell'industria, quindi sicuramente l'ingegneria è una bella facoltà che apre molte porte. Grazie appunto a un ingegnere che l'ha sperimentato di persona, Anna Francesca Mariani, ingegnere nucleare, direttrice della funzione ciclo del combustibile di Sogin. Buona domenica, ingegnere. Buona domenica anche a lei. Grazie. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. Nessuna è perfetta. Ultima parte di Nessuna è perfetta. 828 12 12, il nostro numero della casella vocale, e fateci sapere che cosa vi piacerebbe che si affrontasse, quale tema vi piace. Lo mettiamo in calendario, lo mettiamo nella nostra agenda di Nessuna è perfetta. E domenica scorsa, chi ci ha ascoltato lo sa, abbiamo parlato di quote rosa, cioè è cambiata o no un po' la vita delle donne che lavorano dopo che per tanti anni si è parlato della necessità di introdurre le quote almeno nei consigli di amministrazione delle società quotate. È una legge, la legge di Lella Golfo e Alessia Mosca, all'epoca parlamentari, una di Forza Italia e l'altra del Partito Democratico. Quella legge è servita. a inserire obbligatoriamente le donne nei board delle società quotate, ma è servita anche alle altre? Abbiamo ascoltato i due pareri di donne che la pensano in maniera diversa. Abbiamo sentito Lella Golfo, confermataria della legge, lo sapete, presidente della Fondazione Bellisario, e invece il parere di una dirigente, di un alto funzionario della Consob, Vitalba Azzolini, contraria alle quote. Vi avevo chiesto di dirci invece il vostro pensiero, che ne pensate voi? Quote sì, quote no, ecco che cosa ci avete detto. Buongiorno, Riccardo Molinari, Bologna. In merito alla disparità di genere purtroppo sono fin troppo d'accordo, ma c'è un qualche cosa che aumenterà la disparità di genere ed è un fattore religioso, in quanto purtroppo la ricerca dell'ignoranza, voler mantenere le donne ancora nell'ignoranza, purtroppo è una questione drammatica. E siccome stanno arrivando in Italia sempre più religioni, persone che sposano questo filo, questo credo, purtroppo la percentuale aumenterà. Mi dispiace, perché le nostre donne sono meravigliose, meravigliose, andrebbero sicuramente valorizzate. Buona giornata a tutti. Ecco, la preoccupazione del nostro ascoltatore è che con, diciamo, il mescolarsi di culture, lui parla di religioni anche diverse, si possa realizzare un arretramento. Invece la mia speranza, il mio auspicio è esattamente il contrario, caro ascoltatore, è che invece le conquiste che qui in Italia, in Europa ci sono state e per le quali ci battiamo da tanti anni per una parità di genere che sia effettiva ed efficace, possano sgretolare i muri di diffidenza e anche quelle resistenze legate alla cultura diversa, che spesso hanno portato donne che arrivano qui con appunto esperienze diverse da paesi dall'Africa, dal Medio Oriente, eccetera, ecco, che invece questa commistione arrivi. Purtroppo sappiamo che spesso le seconde generazioni, le giovani donne che aspirano appunto a vivere esattamente come le loro coetanee occidentali, debbono confrontarsi con difficoltà enormi proprio all'interno delle famiglie. E sappiamo bene che ci sono stati episodi tragici, ragazze uccise dai loro padri proprio perché aspiravano a vivere in maniera considerata dalle loro famiglie assolutamente inaccettabile. Buongiorno, io penso che il concetto di quote rosa, anche l'espressione stessa quote rosa, possano rappresentare un po' una sconfitta della società per quanto riguarda quella che veniva definita emancipazione dei diritti sociali della donna nei confronti dell'egemonia maschile. Ricorrere a delle quote rosa sembra quasi ricorrere ad una concessione che viene fatta dal mondo appunto maschile nei confronti delle donne. Sì, questo è quello che dicono in tanti, ma lo dicono soprattutto gli uomini. La mia opinione, caro ascoltatore, è che se non si parte dall'obbligatorietà delle quote, non si sblocca il meccanismo per cui tantissimi parlano, per carità, di parità di genere, si dicono favorevoli alle parità di genere, poi però quando si tratta di una promozione promuovono maschi come loro. E dunque, no, io penso che il merito prima di tutto, quindi non prescindiamo dal merito, ma siccome ci sono tante donne molto brave che hanno aspettato tutta una vita di avere dei riconoscimenti e non li hanno avuti perché magari veniva scelto il compagno di calcetto del loro capo o il maschio che condivideva le serate in birreria, allora no, io comincio a pensare che sia indispensabile applicare le quote un po' dovunque. D'altra parte le hanno messe anche in Norvegia e il nord dell'Europa viene sempre portato esempio, no, della parità di genere. Se hanno pensato che fosse necessario inserirle anche nei consigli di amministrazione del mondo economico norvegese, vuol dire che anche lì, quando si tratta di decidere dei danè, è meglio obbligare a mettere intorno al tavolo anche le donne, perché sennò, quando si tratta di soldi e di potere, c'è la tentazione di parlarne e di decidere solo tra uomini. ...828-1212... come vedete i vostri messaggi, quando arrivano, cioè, li mandiamo quasi tutti, continuate a lasciarceli. E prima di salutarvi vi lascio come sempre con un sorriso. Abbiamo parlato di donne ingegnere e abbiamo scelto per voi invece l'ingegner cane, un ingegnere uomo, e cioè Fabio De Luigi, con uno dei suoi più riusciti personaggi. È una cosa inconcepibile, oh. Ho capito, ma qua è un errore ingegnere. Enorme, è un errore enorme, ma non si può. Ah, oh, ma questa volta mi sente, questa volta mi sente, gli faccio mandare una lettera dall'avvocato. Ah, ah sì, questo signor Pitagora, questa volta si prende una bella denuncia. Ma scusi, ingegner cane, ma con chi ce l'ha, ingegnere? Il primo scemo che passa. Eh? Si mette a fare un progetto. Ma dove andiamo? Guardate il quadrato costruito sull'ipotenusa. Ah, ma quel Pitagora lì? Ma guarda che veramente una cosa incredibile! Ma costruito su che cosa? Che non c'è neanche un pilone! Ma che vedete un pilone che regge? È un teorema! È il teorema di Pitagora! Non è un progetto! Infatti! Che teorema? Questo è palesemente un progetto! Ma perché? È su carta, è un progetto! Ma se in tubi è un ponte, se in carta è un progetto! Vabbè, io non capisco! Questi arrivano, fanno progetti e poi lì di mezzo ci andiamo noi! La mia categoria di professionisti! Senta cane! Senni! Fatti dare il numero di cellulare di questo Pitagora! E cantagliene mille! Allora, cane, lei forse non lo sa, ma Pitagora è morto da alcuni secoli! Esatto! Cane, e non faceva neanche l'ingegnere, tra l'altro! Se è morto, che la smetto di far progetti! Nessuna è perfetta, torna domenica prossima. Allora, noi ci sentiamo domani però, con 24 Mattino, sempre alle 8:20 con Simone Spezia. Vi aspetto. Ciao.